Allora, eccoci di nuovo in diretta, Radio Onda Rossa 87900, e dunque diamo il buongiorno a Pati del collettivo di solidarietà internazionalista Dino Frisullo. Ciao Pati. Ecco, ecco, ci dovresti sentire adesso. Ciao, ciao Pati. Sì, eccoci. Allora, dunque, lo scenario, insomma, che abbiamo descritto poco fa a proposito di questa lotta intrapresa dai migranti di Atene e di Salonicco è, diciamo, uno scenario, tra l'altro, che abbiamo anche conosciuto all'interno del nostro paese. Questa lotta così decisa, così determinata, insomma, sembra assomigliare, la si può mettere in parallelo alla situazione che si è creata ad esempio a novembre a Brescia in Italia, poche decine di migranti che attraverso un'azione di protesta esemplare, potremmo dire, diciamo, tentano di richiamare una forte attenzione anche a livello di opinione, e si fanno carico di portare avanti un'istanza, diciamo, di portata universale, no? Perché non è che lottano solo per loro stessi, ma richiedono la libera circolazione di tutti e di tutte. E dunque, Pati, noi che siamo in Italia e cerchiamo, insomma, di costruire dei percorsi che siano in grado, insomma, di dare risposte adeguate anche a queste richieste, è opportuno che le intendiamo nel senso, insomma, più importante, cioè che solo magari incoraggiandole si possono porre le basi per un nuovo internazionalismo che è tutto da costruire, no? Certo, sì. Appunto, noi, per quanto ci è stato possibile, nel modo molto modesto, insomma, abbiamo cercato di dar voce ai migranti, ai fratelli e sorelle migranti in Grecia, che oggi era, fra l'altro, la 44esima giornata di sciopero della fame. Cosa si può dire? Loro stanno lottando, vogliono vincere questa battaglia. Sono 300, 250 ad Atene e 50 a Salonicco. Va detto che molti di loro hanno già il permesso, quindi però si sono rifiutati, si rifiutano che altri migranti debbano ancora continuare a vivere in modo poco dignitoso, che devono vivere sotto i ponti, che non abbiano la possibilità di poter circolare, che ci sia veramente la libera circolazione delle merci e del capitale, non la libera circolazione degli esseri umani. Hanno detto basta. E la cosa bella in Grecia è che in moltissime città, da parte dei giovani in particolar modo, ma non solo, anche da parte di tantissime situazioni di movimento operaio, eccetera, c'è sta solidarietà. Da Salonicco a Xanti, a Volos, a Giannina, a Creta, non più tardi di 2 giorni fa, l'Assemblea degli insegnanti dell'università hanno stilato un documento di solidarietà, appunto, affinché venga riconosciuto almeno il permesso di soggiorno, di asilo umanitario per tutti i migranti. Ma i migranti lottano, quelli scioperanti, appunto, in sciopero della fame, che tra l'altro avevano pure iniziato già uno sciopero della sete, alcuni di loro stanno lottando per il diritto, per il permesso di soggiorno per tutti, non solamente per loro. E da parte governativa ci sta la carota del bastone. Da un lato si è detto che sono disposti a dare un permesso di soggiorno per 6 mesi, ma dall'altro si sta cercando di reprimere, di criminalizzare tutto quanto il movimento di solidarietà, in particolar modo ad Atene, che è sceso al loro fianco e che stanno scendendo in piazza in continuazione. Anche oggi c'è stata un'altra manifestazione, l'11 ce ne sta un'altra, il 3 ci sono stati in 6 città di Atene, quindi... E secondo noi, i compagni giù a Lecce, converrebbe dare forza, perché, come dicono loro, come hanno scritto loro nel loro manifesto, la loro vittoria è la vittoria di tutti i migranti, non di solamente tutti i migranti greci, ma di tutti i migranti d'Europa, perché non è solamente il governo greco, ma sono tutti quanti i governi greci che stanno, e i governi europei che stanno attuando misure repressive contro gli sbarchi, eccetera. Tra l'altro, noi abbiamo fatto, siamo andati con uno striscione a Bari alla manifestazione del 1° marzo, solidarizzando, facendo un intervento in solidarietà con i migranti greci. Sabato scorso, sotto un diluvio universale a Lecce, abbiamo fatto di nuovo lo stesso, un sit-in. Tanto a noi c'era la pioggia, però loro rischiano la vita, quindi siamo stati contenti di averlo fatto, anche sotto la pioggia battente proprio, siamo stati in 30 con striscioni, diversi anche stranieri, quindi secondo noi bisognerebbe poi, ecco, lancio magari anche questo appello di solidarietà ai compagni, tutti i solidari di Roma, possibilmente quanto prima di andare sotto l'ambasciata greca a far sentire la voce anche dei solidari, dei compagni, di coloro che lottano in solidarietà con gli immigrati. Moltissimi di noi del Meridione siamo stati figli di immigrati, anche mio padre e tantissimi altri, quindi non è possibile che un migrante venga umiliato, venga represso, venga criminalizzato. Il Mare Ionio, il canale d'Otranto è un'ecatombe di migranti. In tutti i paesi della costa salentina, nei cimiteri ci sono tombe di migranti, e purtroppo su molte tombe non c'è nemmeno scolpito il nome o il cognome del migrante morto. L'ultimo, il 14 di dicembre, proprio a Santa Maria di Leuca, laddove vogliono costruire fra l'altro un radar anti-immigrati, così come quello di Siracusa, così come vogliono costruirlo a Sant'Antioco in Sardegna. Ieri sera c'è stata una manifestazione di protesta da parte della popolazione di Cagliano del Capo. Cagliano è proprio l'ultimo paese che si affaccia sul mare Adriatico. Ecco, la popolazione è scesa in piazza anche per i problemi che può arrecare il radar a livello di malattie tumorali, leucemie e quant'altro, ma anche affinché questo radar non calpesti la volontà di un futuro, la volontà e il desiderio di tanti migranti che scappano dalla guerra, che noi occidentali vogliamo, che scappano dalla fame, dalla carestia, che noi spesso abbiamo portato e abbiamo prodotto in tanti paesi del Medio Oriente e dell'Africa sahariana, del Sahel o del Centro Africa. Quindi io ringrazio i compagni di Radio Onda Rossa che stanno facendo da tramite in questo modo, far sapere quindi la voce non c'è, cioè in diretta, è chiaro, dei migranti di Atene, mandare, e se possibile mandiamo messaggi di solidarietà. Se si clicca su internet, Hunger Strike, Hunger sta per fame, sciopero della fame, sono messaggi di solidarietà importanti, far sentire la nostra voce possibilmente quanto prima sotto l'ambasciata greca. Noi del Salento siamo ellenofoni, io parlo, cioè nel mio paese si parla greco, e abbiamo sempre dato ospitalità. Se nel Salento ci sono cripte, lauree, bizantine, quando scappavano dall'impero ottomano, quando scappavano da qualsiasi repressione nel Salento, ecco, questo è il senso della porta d'Oriente, cioè il primo porto di cui possono sbarcare i richiedenti asilo, quelli che scappano dalla guerra. Quindi non è possibile che noi abbiamo accettato tante volte i greci e poi oggi il governo greco voglia costruire un muro a Evros lungo il confine della Turchia. È criminale, è assurdo. Solidarietà con tutti i greci in lotta, solidarietà con tutti quanti i migranti in lotta. No alle politiche repressive, securitarie del governo greco e di tutti i governi europei. Da un lato si parla di missioni umanitarie nei confronti dei migranti che hanno lottato contro il regime di Ben Ali, che poi noi come governo negli anni precedenti, noi governo italiano, abbiamo imposto, certo. E poi dall'altra che costruiamo, cioè installiamo, cerchiamo di installare il radar per fare in modo che i migranti non possano sbarcare, non possano arrivare, e sperando veramente che non succeda quello che è successo con la Sibilla, con la nave militare che aveva affondato tanto tempo fa, aveva speronato la Cater Radesh nel canale d'Otranto, il famoso venerdì nero del 28 marzo dell'88, quando sono naufragate 100 persone. Ecco, sperando almeno che ciò non succeda. Quindi grazie avete la possibilità di poter far sapere, perché sono 44 giorni già che sono in sciopero della fame. Ecco, 44. Infatti è proprio per questo, magari adesso ritorneremo anche su, diciamo, vicende più salentine, proprio perché all'ordine del giorno chiaramente c'è la vicenda degli sbarchi, questo tappo insomma che è saltato dall'altra sponda del Mediterraneo, ma solo e soltanto perché sono saltati evidentemente gli accordi anche infami che il nostro paese ha stretto con i dittatori di quei paesi per impedire tre centri di detenzione, tre CIE costruiti appunto grazie con i soldi estorti dalle tasse della popolazione italiana, e poi con questo hanno costruito tre CIE in Libia. Ecco, prima di questo però io volevo chiederti, visto che tu hai notizie più di prima mano e sicuramente nei prossimi giorni questi contatti noi li intensificheremo proprio per cercare di far sentire la viva voce insomma dei protagonisti di questa lotta, ma insomma ci preoccupano le condizioni in cui sono oggi insomma i migranti in lotta. Sappiamo che in tanti già hanno dovuto comunque sottoporsi a delle cure particolari. Sono 98, fino a ieri sera erano 98 quelli già ricoverati in ospedale. Quindi insomma praticamente un terzo. Un terzo sono ricoverati in ospedale, però si rifiutano lo stesso di prendere alcunché. Da parte del rappresentante ospedaliero, insomma, dottor Musionas, si è stato proposto che venissero ricoverati tutti quanti in ospedale, la popolazione, cioè i migranti, si sono rifiutati. Però ci sta pure una repressione forte già iniziata nei confronti dei compagni e compagne solidali. Sì. Ma in che modo questa repressione ha già, diciamo, fatto scatenare perquisizioni, denunce e quant'altro? Sì. Però nonostante chiedo scusa un attimo, devo invitare mio padre 5 secondi solamente. Sì. Pronto, mi senti? Eccoci. Chiedo scusa a tutti quanti. Quindi sì, ci sono scattate già delle denunce di solidarietà nei confronti di quelli che stanno solidarizzando con i migranti, però la solidarietà, il movimento di solidarietà non si è per niente fermato o piegato, anzi riceve. Avanti ieri ci sono state 6 iniziative in 6 città diverse, da Salonicco a Xanti, a Creta, a Volos, a Giannina, ad Atene più o meno ogni giorno e via di questo passo, insomma, ecco. Bene, allora ci conforta il fatto che perlomeno insomma sebbene avanti ieri sarà pure una manifestazione a Dublino, quindi anche in Europa se ne sta parlando e ci sono momenti di solidarietà molto molto forti. Benissimo, e dunque dicevamo, passando invece al Salento, anch'essa appunto terra di confine, insomma i compagni giù in Salento sono almeno 2 decenni che vivono in modo intenso la questione immigrazione, chiaramente non con la paura dell'invasione, ma piuttosto nell'intento di favorire un incontro, no? Tra soggetti provenienti da paesi diversi, magari di sviluppare anche percorsi di lotta comuni. A metà febbraio, oggi insomma gli sbarchi che arrivano sulle nostre coste arrivano in misura maggiore a Lampedusa, ma insomma a metà febbraio molti erano anche gli sbarchi che sono arrivati in Salento, in modo particolare vicino la marina di Patù. Sappiamo tra l'altro che ci sono anche rotte di immigrati africani che si muovono dalla Turchia o dalla Grecia stessa, come dicevi tu, fuggono soprattutto dalla condizione di vita che abbiamo alimentato, condizionato e creato noi occidentali. Volevo chiederti, Pati, qual è la situazione in questo momento anche al centro di accoglienza, il Don Tonino Bello di Otranto, se la situazione insomma è per così dire d'emergenza, anche se questa parola è fin troppo abusata e anzi è utilizzata a sproposito per nascondere poi il vero volto, no, delle politiche che non sono di accoglienza ma di respingimento in realtà spesso. Sì, rispetto al Don Tonino Bello, il 1 gennaio, proprio quando c'è tantissima gente, la festa dei popoli eccetera eccetera, l'alba dei popoli ad Otranto, Tantonino del Bello dovrebbe essere un CPA, centro di prima accoglienza, si sono distribuiti migliaia di volantini per la chiusura di questo centro, perché altro non è che un centro di riconoscimento, di individuazione di migranti che sbarcano, che vengono presi dalle forze dell'ordine e poi mandati a Bari, al CIE di Palese. In effetti non fa nient'altro, non svolge nient'altro. È un centro di smistamento praticamente. È un centro di smistamento, identificazione, e subito mandati là. E subito mandati al CIE di Bari. Non è nient'altro. Questo insomma la dice lunga su quanto sì, anche perché poi sui giornali purtroppo invece sì, questa con la complicità di tutte quante le istituzioni, anche quella regionale del centro-sinistra guidata da Vendola, che non si sta comportando per niente meglio dell'ex governatore Fitto, almeno rispetto al problema dell'immigrazione, anzi purtroppo hanno pure stanziato a livello regionale con collaborazione con le varie province 1 milione di euro per un cosiddetto progetto Asia, che però di fatto nei confronti dei migranti che hanno bisogno non si vede l'efficacia, forse serve solamente per qualche galoppino o per qualche rappresentante dei vari gruppi politici o affiliati al potere. Faccio degli esempi concreti, Il 14 dicembre c'è stato uno sbarco, mi pare con 29, adesso non ricordo con esattezza, 29 migranti, la maggior parte curdi, è morto uno durante il percorso. No, sono venuti i fratelli, non c'è stato uno, un'istituzione, un ente preposto che abbia dato, abbia offerto un minimo di solidarietà, una parola di affetto, un posto dove portarli a dormire, offrirgli un biglietto per un pranzo, di dire ci dispiace, niente. Questo giovane che è morto aveva 31 anni, si chiamava Walid Al-Assad ed era di Al-Assaga. Nessuno, dal primo comune all'ultima della regione, hanno fatto alcunché. E questa è una responsabilità che io non mi dimenticherò mai nei confronti della giunta regionale del centro-sinistra. Non fanno assolutamente niente. Un altro è morto appena 20 giorni fa, Mustafa Basharan, anche lui curdo della Turchia. Nessuno ha dato una mano, né per il trasporto, né per le spese, né per la solidarietà nei confronti del figlio Ahmad o della moglie Fatima o del fratello Mehmet. Nessuno. Questa è la realtà. Allora, da un lato ci sta la complicità istituzionale nello spartirsi i soldi, dall'altro ci sta la solidarietà di classe, la solidarietà dei figli dei migranti, la solidarietà degli sfruttati, anche salentini, nei confronti dei migranti che arrivano o che hanno bisogno. Questo è la cosa bella, appunto, anche sabato scorso, di fronte ad un diluvio che c'era nella piazza principale di Lecce, c'erano diversi migranti che hanno fatto proprio un'iniziativa di solidarietà nei confronti dei fratelli e sorelle greche che stanno lottando per una lotta che non è solamente loro, ma né tanto meno tutti quanti i migranti greci che si trovano in Grecia, ma di tutti i migranti d'Europa. Beh, sono racconti forti i tuoi, lutti che insomma chiaramente non vorremmo, ripeto, di cui Walid non vorremmo sapere Al-Assad, di cui non ci dimenticheremo mai. Abbiamo conosciuto i suoi fratelli e Mustafa Basharan, abbiamo conosciuto la moglie, il fratello, il figlio, e ripeto, nessuno di nessuna istituzione locale, provinciale o regionale ha dato una mano. E non dico a livello economico, ma almeno a livello di affetto, a livello di solidarietà umana. Poi si sciacquano la bocca, poi scialacquano i loro averi, che non sono loro, sono delle tasse di noi, nostre. Senti Pati, a proposito di questo radar invece sulle coste, ecco, da quel punto di vista la politica da questo punto di vista, insomma, come si sta muovendo anche il fatto è che ci hanno colto alla sprovvista, nessuno quasi sapeva niente, però c'è stata una manifestazione spontanea di cittadini ieri alle 5, è stata la prima. Stamattina alle 11 ci sta un tavolo tecnico a 60 km dal mio paese, proprio a Gagliano del Capo, e poi là si deciderà il da fare con i cittadini del posto e con i compagni della zona. Certo, si è deciso di non far passare o almeno di contestare per quanto è possibile quello che ciò significa, il radar, da un lato dal punto di vista della maggiore esasperazione di un tasso tumorale che già in provincia di Lecce nel Salento già abbastanza alto, proprio perché ci sono i fumi dell'Ilva di Taranto, che è l'Ilva che produce e emette il 70% della diossina a livello europeo, i fumi di Cerano che hanno inquinato i terreni vicini, tanto che ci sono pure delle ordinanze prefettizie di sequestro dei terreni perché non possono più essere coltivabili in quanto inquinanti. Quindi tutti quanti questi fumi che scendono giù nel sud del Salento, altro che Salento, scusa, c'era, sto vicino a mio padre che non sta molto bene un attimo. Quindi altro che sole, mare e divertimento, qua c'è stata solamente diossina e sfruttamento forte nei confronti di tutta la popolazione salentina e quindi anche dei migranti, per cui oltre che aumento del tasso tumorale, ciò poi significa l'impatto nei confronti dei migranti, per cui cercheremo di opporci quanto più possibile nel migliore dei modi. Certamente, tra l'altro un paesaggio che si rovina anche con l'installazione dei radar e che soprattutto è rovinato dalla continua e sempre più forte militarizzazione delle coste, militarizzazione che chiaramente giunge e si sviluppa in parallelo con l'istituzione delle galere, dei CPT, di questo controllo sistematico, insomma, antimigratorio, potremmo dire. Va bene, senti Paty, noi ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. Insomma, dicevamo poc'anzi che avremmo potuto anche ascoltare qualcosa da parte di compagni greci, non oggi, lo faremo nei prossimi giorni, ci attrezzeremo e rimaniamo in contatto per questo, ok? Ringrazio, sono veramente contento di aver dato, spero di essere stato utile affinché i compagni capiscano meglio la situazione. Assolutamente sì, ti ringraziamo, ciao Paty, ciao, buon lavoro compagni, ciao.